Nella notte la mia mente scivola, dove al nulla s'abbandona. Credo a volte che non sia finita qua la realtà che non consola. La tua rabbia libera, finché non sarà più sola. E tu credi che ci sia verità nella follia, e tu lo credi e qui c'è, non lasciarti prendere. Solo un po' di nostalgia, e se lo pensi più non c'è, vuoi lasciarti prendere dalle sacre trappole del non essere. Dove al tutto s'abbandona.